con il regista Francesco Invernizzi per presentare il suo documentario Wunderkammer, la stanza delle meraviglie, al cinema da lunedì 4 marzo 2019. Francesco, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Raccontaci questo progetto. Wunderkammer è un progetto straordinariamente interessante perché ci porta a conoscere le collezioni del Cinquecento, le collezioni di coloro che erano imperatori, re, o comunque coloro che avevano imperi coloniali, che in qualche modo alla fine del Quattrocento, all'inizio del Cinquecento, con la scoperta del Nuovo Mondo, raccolgono da questo Nuovo Mondo oggetti, animali o qualsiasi cosa che fosse in grado di testimoniare l'ampiezza del proprio impero, e creano delle collezioni straordinarie. Queste si sono poi evolute nel tempo e sono arrivate fino ai giorni nostri. Quindi è un modo per, questo film è un racconto per entrare nelle case piuttosto che nei musei di collezionisti straordinari, perché come allora, ancora oggi, persone che hanno la facoltà evidentemente di poter investire cifre molto importanti nelle proprie collezioni, le raccolgono all'interno di castelli, all'interno di grandi ville o di luoghi adatti a questo tipo di collezione, e collezionano davvero di tutto, perché sono da oggetti preziosi a quello che sono diventate poi oggi l'evoluzione di quelle collezioni, con le tute spaziali, meteoriti, dinosauri, piuttosto che ancora oggetti che ci rimandano al passato. Come ha avuto origine l'idea? Ma questa idea nasce in realtà dal fatto che io sia un appassionato di Wunderkammer, di Stanze delle Meraviglie. Credo un po' tutti, in fondo, anche senza andare in collezioni particolarmente importanti, di prestigio. Comunque a tutti piace un po' collezionare qualche oggetto strano, curioso, eccetera. Ecco, questa curiosità, diciamo, si traduce in modo serio nelle Wunderkammer. Quindi nasce da lì, dalla curiosità di vedere le collezioni degli altri e di vedere delle collezioni di una straordinaria bellezza ed importanza, racchiuse in contesti meravigliosi che quindi, come dire, esaltano tutta questa bellezza e questo senso della meraviglia. Questa ricerca dove ti ha portato in giro per il mondo? Sicuramente l'Europa è il luogo più adatto a questo tipo di collezioni, soprattutto se andiamo a cercare quelle storiche, quindi quelle asburgiche piuttosto che quelle, non faremo degli imperi, dicevo prima, dei grandi imperi coloniali, per cui anche quelle francesi, quelle spagnole, eccetera, più inglesi naturalmente, per cui ci ha portato nel cuore dell'Europa, proprio tra la Spagna, la Francia soprattutto, la Germania, l'Austria e l'Inghilterra, e naturalmente anche l'Italia, dove è una tradizione che parte con i Medici e che si evolve via via anche con tutto quello che è stata l'opera dei gesuiti, perché in fondo le Wunderkammer sono il lato oscuro, come ci è stato raccontato, dell'enciclopedia, quindi della raccolta del sapere. Allora ci sono stati non soltanto collezionisti, ma anche ricercatori, storici molto importanti, in particolare il mondo dei gesuiti, ci ha condotto lungo questo percorso alla scoperta della meraviglia e della sapienza 500 anni fa, da 500 anni fa ad oggi. Prima hai citato i castelli, ecco, quali sono i luoghi di queste Wunderkammer? Le più belle Wunderkammer si trovano proprio in questi straordinari castelli. La Francia ne ha costellati, a partire dalla Normandia, piuttosto che in Borgogna, piuttosto che vicino a Parigi. Abbiamo trovato dei luoghi davvero di una bellezza e di una esclusività straordinaria. Sono castelli privati, ma come abbiamo avuto modo di scoprire, siamo stati anche all'interno di importanti musei, tra cui la Tate Modern Gallery, che ospita una collezione che si rifà al concetto di Wunderkammer, in cui poi ci hanno guidato alla scoperta di quelle che sono anche nel mondo contemporaneo, quindi anche nell'arte contemporanea, i concetti della Wunderkammer. Altrettanto nel contemporaneo è uscito Douaron, con colui che fu il direttore del Centre Pompidou, che l'ha allestito, Jean-Hubert Martin, il quale a sua volta ci ha spiegato quale fosse il senso e il concetto della Wunderkammer classica e della Wunderkammer contemporanea. Quindi in realtà sono una miriade di luoghi, siamo stati in oltre 20 luoghi, siamo stati anche a trovare coloro che sono dealer di oggetti di Wunderkammer, e tra i dealer ci sono anche delle cose straordinarie come l'arte precolombiana piuttosto che egizia, evidentemente lecita nella vendita e nel commercio, ma sono davvero posti straordinari, figure straordinarie, quelle che abbiamo incontrato nel nostro percorso. Da quanto dici ci sono pezzi di livello museale comunque. Sono tutti di livello museale, parliamo di collezioni, di antiquari e di proprietari, diciamo in qualche modo, di collezione che hanno valori davvero quasi inestimabili. si trovano, si acquistano questi beni negli stessi luoghi in cui i musei possono acquistarli. Molto spesso è vero anche che i collezionisti molto facoltosi possono permettersi dei pezzi da museo che gli stessi musei non si possono permettere, ovvero sia pezzi che i musei, come ad esempio lo stesso British Museum, vende per comprare poi dopo un pezzo più importante e più interessante per la propria collezione. Quindi davvero sì, è il mercato dei musei fondamentalmente, sono dei musei privati di una straordinaria bellezza e di importanza. Ecco, proprio a questo proposito, esiste una fruizione pubblica per quanto riguarda le visite? In alcuni luoghi sì, in alcuni musei, penso al Sir John Soane Museum a Londra, che fu il primo museo privato, la prima casa privata donata poi dopo al governo in qualche maniera, tale per cui fu fatta addirittura una legge dal Parlamento inglese perché non si erano mai trovati in una condizione del genere, quindi visitabile. Altrettanto ci sono altri luoghi visitabili, siamo stati al museo strumenti scientifici Galileo Galilei di Firenze, piuttosto che al museo dove si ospita la collezione Aldo Grandi, Palazzo Poggi a Bologna, ma in realtà per la maggior parte no, sono collezioni inaccessibili proprio perché si trovano all'interno di questi castelli, di questi luoghi straordinari che sono proprietà private e quindi di fatto assolutamente non visibili. Questo film è l'occasione per visitarli e credetemi, sono stanze straordinarie quelle che ci si trova di fronte, sono luoghi una bellezza, insomma, come si, che fa perdere quasi i sensi, è veramente impressionante. Il valore e la bellezza di queste collezioni e il modo, peraltro, in cui sono allestite. Ecco, come hai articolato il tuo documentario? Come è strutturato? Intanto è un viaggio per l'Europa alla scoperta, da un lato storico di come si siano create, evolute le Wunderkammer a partire dal Medioevo, perché esistono ancora, stiamo parlando della fine del Medioevo, dell'inizio del Rinascimento, quindi il retaggio medievale permane in queste collezioni, alcuni pezzi diventano dei classici. Penso ad esempio ai coccodrilli che in epoca medievale venivano appesi nelle chiese e siamo stati in alcune chiese come a Curtatone, la Madonna delle Grazie, in cui c'è ancora un coccodrillo appeso. Il coccodrillo appeso nella chiesa simboleggiava il male che era imprigionato dal bene simboleggiato dalla chiesa. All'epoca si parlava di catechesi per immagini, perché il popolo fondamentalmente era ignorante, non sapeva né leggere né scrivere, allora vedere un mostro imprigionato in qualche maniera dava l'idea del sopraffare del bene sul male. Altrettanto penso al dente del narvolo, che solo successivamente si scopre essere il dente del narvolo, altrimenti era pensato come il corno dell'unicorno. E da lì, partendo da questo percorso storico, si va invece a descrivere le diverse categorie, perché la Wunderkammer non è una collezione fatta a casaccio, ha delle categorie ben precise che sono i naturalia, ovvero sia oggetti del mondo naturale, gli artificialia, che sono oggetti che derivano dal mondo naturale, ma che poi dopo vengono, immagino, in Nautilus lavorati, piuttosto che vengono quindi elaborati e trasformati in oggetti di uso comune, poi gli strumenti scientifici e così via. E quindi noi abbiamo attraversato ciascuna di queste categorie rappresentando ciascuno dei luoghi che abbiamo incontrato, trovato, eccetera, in quello che potesse essere espressione di queste singole categorie. E allora, ecco, quello che ne deriva è un racconto preciso del concetto di Wunderkammer, mostrandone oltre 20, per cui appunto in questi luoghi inaccessibili, che danno modo allo spettatore e a noi stessi hanno dato modo di conoscere, di approfondirle e di vederle in un'espressione meravigliosa. C'è qualche oggetto in particolare che ti ha stupefatto? Che mi ha colpito moltissimo, ad esempio, sono stati gli orologi. Non avevo mai fatto la riflessione sugli orologi. L'ora privata, come diremo nel film, soprattutto nel Cinquecento, era appannaggio degli imperatori, dei re e di coloro che in qualche maniera, gli ambasciatori a cui veniva donato l'ora privata e dei papi. Quindi la cosa straordinaria che si scopre, ad esempio in questo caso, è come i papi, gli imperatori, eccetera, si facessero ritrarre, e l'abbiamo scoperto proprio vedendo i ritratti, con l'orologio, con un orologio appoggiato sul tavolo a simboleggiare il fatto che loro avessero accesso all'ora privata. Naturalmente non parliamo di orologi o d'orologini, parliamo di macchine che si muovono, sono degli automi, hanno dei sistemi molto complessi per il calcolo dell'ora e per essere degli orologi veri e propri. Ed erano anche strumenti di intrattenimento, erano dei veri e propri automi, a volte potrebbero sembrare giocattoli, ma sono giocattoli che per quelli che abbiamo visto noi vanno dagli 8 ai 30 milioni di euro come valore, per cui insomma stiamo parlando di macchine estremamente complesse e interessanti da vedere. Una sorta di simbolico dominio del tempo. Che senso era questo? Sì. Era esattamente questo, era il fatto di possedere l'ora e possedere quindi il tempo. E naturalmente in un momento in cui parliamo di potere temporale, no, che era quello appunto di Papa, imperatore e potente, assume un significato particolarmente rilevante. Francesco, in chiusura, che tipo di uscita sarà? In quante sale? Sarà inoltre 250 sale, per cui con una copertura che andrà lungo tutto il territorio nazionale. Avremo questa possibilità in questi 3 giorni, come sempre all'interno del percorso del cinema evento, per le giornate di lunedì, martedì e mercoledì prossimo, quindi 4, 5 e 6 di marzo, praticamente in tutta Italia. Bene, allora ricordiamo l'uscita in sala del documentario Wunderkammer, la stanza delle meraviglie, al cinema da lunedì 4 marzo 2019. Un saluto e un ringraziamento al regista Francesco Invernizzi. Francesco, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto.